Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Linda Garder e Marianne Jacobsen dell'ambasciata di Norvegia per presentare il Nordic Film Fest Goes Online su Festival Scope dal 29 al 31 ottobre 2020. Ben trovate. Grazie, buongiorno, siamo molto felici di essere qua. Raccontiamo a chi ci ascolta cos'è il Nordic Film Fest. Sì, perché diciamo che Nordic Film Fest nasce con l'intento a promuovere la cinematografica e la cultura dei paesi nordici in Italia, e sempre stato organizzato a cura delle ambasciate nordiche. Questa volta è proprio la prima volta che facciamo Nordic Film Fest online, sempre sulla piattaforma Festival Scope, che ha anche collaborato con la Mostra Internazionale del Cinema a Venezia quest'estate. Siamo molto felici che ora il festival sarà accessibile in tutta l'Italia per la prima volta, perché finora è sempre stato a casa del cinema a Roma. Quanti titoli saranno? Avremo 4 film in programmazione. 2 sono i film norvegesi Hope e Amundsen. Poi c'è un film finlandese Aurora. E l'ultimo film a chiudere il festival, Storie con cavalli e uomini dell'Islanda. E infatti noi siamo molto felici per questa programmazione. Abbiamo anche un webinar dedicato al cortometraggio norvegese che si svolgerà su Zoom venerdì. Originariamente quanti erano stati i titoli scelti per l'edizione normale? Sì, perché diciamo che quando siamo stati presenti a casa del cinema abbiamo avuto una programmazione per 3-4 giorni con 4 film ogni giorno. Quindi questa volta, diciamo, questa edizione abbiamo dei film più, diciamo, non tutti i titoli come prima, però in questa prima edizione digitale siamo contenti di avere la presenza comunque da questi 3 paesi. E poi c'è anche questa cosa che quando si può vedere il film sarà accessibile per 48 ore. Quindi uno adesso, guardando i film da casa, si può scegliere se si vuole vederlo la sera con la cena oppure la mattina a colazione, che è un po' un nuovo fenomeno per noi e voi andando online. Ci sarà la possibilità di un'interazione con il pubblico? È previsto l'incontro online con alcuni autori e autrici? È previsto una sorpresa all'inizio dei film norvegesi con un saluto del regista e dell'attore dei nostri film. Però per questa edizione non è previsto un Q&A, però diciamo se l'anno prossimo saremo anche presenti online, lo prendiamo in considerazione di creare anche un Q&A e più interazione con il pubblico. Qual è lo stato di salute del cinema nordico? Lo stato della salute è che è un cinema, diciamo, molto, molto diverso dai nostri paesi. Diciamo anche che adesso durante la pandemia è stato anche molto aiuto dato dalle istituzioni, sempre per dare l'appoggio ai produttori e registi del cinema. E noi siamo sempre stati molto contenti di poterli portare in Italia i nostri film, perché abbiamo sempre visto una casa del cinema molto pieno con il pubblico e molto prestato a scoprire il cinema, che vogliamo sempre mettere più in evidenza. Come mai arriva così poco cinema nordico nelle sale italiane in generale? Una bella domanda, infatti per quello che organizziamo questo festival, proprio per promuoverlo e farlo più accessibile al pubblico. Però è da dire che comunque collaboriamo con la Guarimba Film Festival per il webinar dedicato al cortometraggio norvegese, che hanno avuto in programmazione film nordici quest'estate. Anche i Boreali, un altro party del festival, anche loro hanno una bella promozione della cultura nordica, anche del cinema ogni tanto. E comunque voglio comunque dare 2 parole sui nostri film, perché Amundsen e Hope, che sono quelli che contribuiamo della Norvegia, sono 2 storie molto diverse. Cioè Amundsen è la storia avventurosa di Roald Amundsen, che è stato un grande esploratore polare. E il film presenta la sua vita drammatica ed etica con varie spedizioni e mette anche in evidenza le controversie nella sua vita privata, perché diciamo che per scegliere film proprio online e non andando nella classica sala del cinema, abbiamo anche dovuto pensare a quali film prendere lo spettatore davvero come storie. E Hope è un particular love story, una storia di amore un po' particolare, che si tratta di Anya che riceve il diagnosi di cancro cervicale destinate pochi mesi di vita, però soprattutto questo film è la storia di amore tra lei e Thomas, che è il compagno, che si riconnettono nel percorso comune a combattere la malattia. E questo film è da dire che è proprio basato sulla storia vera della regista Maria Sødal, che ha avuto questo diagnosi 8 anni fa. In chiusura ci dai tutti i riferimenti web per seguire il programma? Oggi a mezzogiorno aprono proprio le registrazioni per prenotarsi ai film, che è tutto accesso libero a tutti, sempre sul Festival Scope, quindi andando su www.festivalscope.com/Nordic Film Fest trova la nostra programmazione, diciamo anche i link dei vari film, e vi raccomando anche di seguirci nei social su Nordic Film Fest Roma, su Instagram e Facebook, e sull'ambasciata di Norvegia e ambasciata di Finlandia, perché oltre alla programmazione del cinema vi invitiamo anche a fare parte di Hygge, una campagna che diciamo introduce un po' la filosofia nordica per stare bene a casa, questa volta con il cinema, con magari il buon cibo, le tisane oppure il vino, così è una campagna che vi invitiamo il pubblico a condividere con noi con i momenti diversi, sempre sul social. Nordic Film Fest Roma e festivalscope.com per il festival stesso. Dal 21 al 31 ottobre 2020 un saluto e un ringraziamento a Linda Gardner e Marianne Jacobsen dell'Ambasciata di Norvegia. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci. Grazie. Presto. Grazie mille. Con Gianluca Guerra, uno dei curatori del Trieste Science Plus Fiction Festival, dal 29 ottobre al 3 novembre 2020 su My Movies. Gianluca, ben trovato. Ciao, ciao, ciao. Un cambiamento in corsa? In parte. In parte. In parte. In realtà ci avevamo pensato un po' prima. Speravamo di no, ma avevamo pensato che le cose potevano andare anche male e dunque avevamo già previsto un'edizione online. Ci sarebbe piaciuto andare in sala, ma teniamo tutto il cinema, perché il Social di Fantascienza è un festival di presenza, di partecipazione, di divertimento. Insomma, festival contiene la parola festa e questo è il science di solito, quantomeno nelle precedenti 19 edizioni. Quest'anno andiamo solo online, ma faremo una grossa presenza sui social, portiamo tutti i Q&A con i registi online, abbiamo le presentazioni di tutti i registi dei film, e insomma ci siamo un po' premuniti. Dai. Per chi non lo conoscesse, come lo presenteresti? Come il primissimo festival di fantascienza d'Europa e attualmente sicuramente il più importante d'Italia. È un festival che invita così a riflettere sul futuro in vari modi, appunto dalla fantascienza più filosofica a quella più d'avventura o più divertente, insomma. Quante sono le opere presentate? Sono effettivamente 19 film, una serie TV e credo 36 cortometraggi, quelli che sono sul programma online. In realtà avevamo riservato per il nostro amato pubblico qui in sala una decina di film ancora, che adesso stiamo cercando di portare online. Qualcosa io credo che porteremo online ancora del programma che non era previsto fino all'ultimo DPCM. Rispetto anche ai lavori che hai visto, la fantascienza oggi cosa prefigura? È distopica o ottimista? Bella domanda. Diciamo che la fantascienza è forse il genere principe di questi ultimi 20 anni di cinema, quindi che sono gli anni occupati dal nostro festival, tra l'altro, perché se tu apri una pagina qualsiasi di uno dei grandi aggregatori di film online, per quanti dei film, se non sono di fantascienza, appartengono quantomeno al fantastico. E in questo momento mi sembra che ci sia più voglia di evasione che non voglia di distopia. E anche un po' quello che stiamo invitando a fare anche noi, a partire dall'immagine così colorata dell'astronauta e anche un po' nel programma che proponiamo. di distopico c'è solo un film che parla di pandemia, che è un film americano a basso budget, molto underground, che si chiama Lone, e davvero poco altro. Quali sono i paesi più prolifici da questo punto di vista? Ultimamente in Europa si stanno facendo abbastanza film del fantastico, noi ne ospitiamo molti anche perché facciamo parte della federazione media dei festival del cinema fantastico. Chiaramente quest'anno è un anno estremamente particolare, ovviamente, perché molte produzioni sono state letteralmente bloccate, molti film che erano i blocchi di partenza sono rimasti i blocchi di partenza, a partire da Dune, per capirci, sono i casi più eclatanti. Noi ospitiamo anche uno spazio che si chiama Spazio Italia, dove andiamo a proiettare i film più importanti del fantastico italiano. Quest'anno ad esempio ne abbiamo uno solo, credo sia la prima volta. Comunque nel nostro programma, se qualcuno mi chiede, una nazione che sta proponendo molto materiale di fantascienza fantastica è sicuramente la Russia. Noi presentiamo Coma, presentiamo The Blackout, e posso quasi dartelo per certo, diciamo, come anteprima, come regalo, proietteremo anche Sputnik, perciò sono ben tre film di fantascienza russa, non sovietica, ahimè, ma c'è una certa differenza. Ci sono incontri con popolazioni altre nella galassia? Sì, ma non tantissimi. La verità, quel tipo di fantascienza in questo momento, probabilmente anche per una questione di effetti speciali, di creazione di storie più complicate anche da mettere in scena, quest'anno ce ne sono decisamente meno. È più una fantascienza che ha a che fare con la speculazione sull'intelligenza artificiale, sul mondo dei robot, sul dopodomani, diciamo, sul futuro più prossimo. Per tutti i dettagli sul programma, i riferimenti web? Il sito del festival è Science Fiction Festival, molto semplicemente .org, e poi c'è un home page su My Movies dove trovate tutti i film in programma e la possibilità di accreditarsi. Abbiamo anche scelto di mantenere un prezzo davvero molto basso, visto anche peraltro il momento che tutti noi viviamo, costa 9,90 euro, abbiamo 6 giornate di festival, forse anche questo così. Ve lo do come anteprima, forse arriveremo anche alla settima, vediamo. Trieste Science Plus Fiction Festival, 20ª edizione, su My Movies, dal 29 ottobre al 3 novembre 2020. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Gianluca Guerra. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. A presto, grazie mille. Con Sabrina Baracetti del Far East Film Festival per presentare la piattaforma digitale dedicata al cinema asiatico Far East Stream, online da mercoledì 21 ottobre 2020. Sabrina, ben trovata. Ben trovato a te e a tutti i radioascoltatori, siamo molto felici finalmente di essere riusciti a portare sulla rete alcuni dei film che hanno trovato spazio all'interno delle passate edizioni del Far East Film Festival, e anche aggiungendo molto materiale, molto contenuto, insomma, in più rispetto anche ai vari festi che abbiamo mostrato in tutti questi anni. Si parte con 30 titoli. Con il concetto appunto di avere un film al giorno, intanto, a tenerci compagnia, un film asiatico, nuovo, meno nuovo, un classico, un cult. Abbiamo affrontato vari percorsi poi all'interno di questa prima selezione, che appunto permette poi all'utente, allo spettatore, di scegliere i film in base ad esempio al genere, in base alla nazionalità o in base anche alle altre passioni, possono essere ad esempio le arti marziali. Abbiamo un discreto numero di film che riguardano appunto il Kung Fu, a cominciare naturalmente dalla mitica saga di Ip Man con il volto di Donnie Yen. Ma in aggiunta abbiamo anche due film che arrivano freschi freschi dall'ultima edizione di Far East Film Festival, che appunto quella che si è svolta lo scorso giugno online. Quindi abbiamo un noir coreano che è This Coin at Souls, che era un'opera veramente esplosiva, e poi abbiamo l'opera totale, definitiva, psichedelica, mistica del grandissimo Bayashi Nobuhiko, che ne abbiamo presentato qui, appunto abbiamo introdotto qui al pubblico del Festival di Udine proprio premiando Kobayashi, detto Obi, con tutti gli amici in prima alla carriera, e che poi sfortunatamente proprio Kobayashi, questo grandissimo autore e regista giapponese, è venuto a mancare, per cui siamo riusciti giusto in tempo a celebrarlo come andava fatto. E questo Labirinto Cinema, appunto, diciamo, quest'opera omnia, totale, risolutiva e conclusiva anche di tutto il suo approccio artistico, fa parte della selezione della nostra piattaforma, appunto, di fare stream. Quindi siamo felici anche di aver aggiunto anche del materiale molto molto fresco. Quanti sono i paesi rappresentati? Quanti saranno anche? Sono esattamente quelli del Far East, quindi dell'Estremo Oriente. Abbiamo uno spazio molto cospicuo dedicato alla Corea del Sud, ma non solo, perché comunque abbiamo anche alcuni film dal sud-est asiatico, quindi abbiamo la Thailandia, avremo presente il Vietnam sicuramente, ma anche la Cambogia. Stiamo costruendo appunto così una proiezione su tutti quelli che sono i paesi che sono stati indagati da Far East e che troveranno appunto spazio su questa piattaforma, che è attiva 12 mesi l'anno, questa bellezza. Come è strutturata? In base a dei percorsi che sono riconducibili appunto all'appartenenza di questi film, quindi le nazioni indicate, le nazioni da cui appunto arrivano questi lavori cinematografici. Quindi c'è il percorso legato all'origine, c'è il percorso legato ai generi e ci sono percorsi poi dedicati a degli argomenti specifici, come ad esempio abbiamo un percorso dedicato al maestro Ozu, abbiamo un percorso dedicato a Hitman e alle arti marziali, e abbiamo un percorso di curiosità che così abbracciano le cose un po' più bizzarre del cinema giapponese, perché ci sono sia percorsi tematici che percorsi legati invece all'origine stessa dei film. Oltre ai film, che materiali raccoglie la piattaforma? No, per il momento abbiamo i film. L'idea è quella di aggiungere ogni mese una dozzina di nuovi titoli, e quindi avere alla fine dell'anno prossimo, che è comunque un progetto a lungo termine, un vasto catalogo che possa dare un'idea anche di tutto il lavoro fatto di ricerca, di approfondimento sul cinema asiatico del festival, e che poi si traduce appunto nella disponibilità di molti di questi film su questa piattaforma con un prezzo, diciamo, decisamente molto molto conveniente. Sono previste anche schede, interviste? No, le schede e le interviste ovviamente le faremo sul sito del festival e all'interno di quelle che sono le strutture del festival, per esempio il catalogo, che rimane comunque un libro alla fine di approfondimento su tutto quello che è successo nell'Estremo Oriente negli ultimi 12 mesi rispetto all'edizione del festival che frequenti, che hai visto, alla quale partecipi. Sulla piattaforma avremo tantissimi nuovi titoli, sì, quindi anche documentari. Già siamo partiti con un documentario dedicato a Ramen, continueremo sicuramente a mettere insieme anche dei documentari che approfondiscono certi aspetti della cultura asiatica, ma non produrremo dei contributi specifici live o così questo tipo per il momento. I riferimenti internet? www.farisfilm.it, e come partner tecnico abbiamo scelto ancora una volta mymovies.it. Faristream, la piattaforma digitale dedicata al cinema asiatico, online da mercoledì 21 ottobre 2020. Un saluto e un ringraziamento a Sabrina Baracetti del Far East Film Festival. Un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Grazie a te, a prestissimo. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.